Prendono le stagioni a teatro, palcoscenici, quasi tutti seguiti da In Scena al Breakfast Club nella giornata di venerdì oppure nei vari Last Minute. Quindi, tornando in studio dopo lo spazio per il GR di Radio Popolare, riprendiamo questi percorsi che di stagione 2024 autunno, quindi e anche inverno, settembre, ottobre, novembre e dicembre, iniziando da Teatri di Vita. Grazie a Stefano Casi che ha dato disponibilità durante la conferenza stampa di presentazione per anticiparne in sintesi alcuni contenuti con un titolo Cromosomi Teatrali. E in scena per XYZ, in conclusione, aggiungo anche il confronto tra i due candidati alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Ecco, che è un'iniziativa lodevole per la comunicazione e la diffusione di attualità politica ripresa a teatro. Teatri di Vita, per questo inizio, vede la parola chiave di cromosomi teatrali per il dibattito che ha attraversato l'Italia durante l'estate. Non poteva sfuggire tutto ciò che ha riguardato i cromosomi. Ricordiamo la medaglia d'oro Imane Khelif, che è stata criticata, è stata più volte attaccata. Io tengo per Imane Khelif, ve lo dico molto sinceramente, dopo aver portato questo appoggio poco importa, però quello che invece importa è come Teatri di Vita ne dà motivo di riflessione attraverso il teatro, attraverso la letteratura, già dall'inizio, perché si parla di cromosomi, quindi 27-29 settembre si inizia con Frankenstein, e in questo caso quale attinenza più forte, prodotto da Elsinore e diretto da Yvonne Capece. Beh, adesso ho portato velocemente l'inizio e un contenuto importante per quanto riguarda la comunicazione con cittadine e cittadini, soprattutto per i giovani. Ma sentiamo direttamente dalla voce del direttore artistico Stefano Casi questa sintesi legata all'inizio di stagione Teatri di Vita. Stefano Casi, Teatri di Vita, stagione 2024 per quanto riguarda settembre, ottobre, novembre, dicembre, in cosa consiste, quali fili rossi? Teatri di Vita poteva farsi sfuggire la polemica estiva delle Olimpiadi e allora ecco che la stagione autunnale di Teatri di Vita si intitola Cromosomi Teatrali, a proposito di cromosomi, pugilato, Algeria e via dicendo. E tra l'altro ci sarà anche proprio uno spettacolo dedicato all'Algeria e alla condizione delle donne con La donna fatta a pezzi, una produzione proprio del Teatro delle Donne da un racconto di Assia Gebar. Questo per far capire come più che il tema, gli stimoli, gli spunti sono quelli dei cromosomi e quindi del genere, e quindi ovviamente l'identità di genere, ma anche il genere come spettacolo, il genere teatrale che si confronta con altri generi, altri linguaggi che vanno dalla letteratura al cinema alla musica. Quindi una stagione, chiamiamola degenerata, per rimanere in tema di generi e di cromosomi, dall'ultimo weekend di settembre, che inizia proprio con la degenerazione assoluta, visto che è un Frankenstein. È un Frankenstein diretto da Yvonne Capece con la compagnia Elsinore, che unisce teatro e cinema in qualche modo, ma coinvolge anche gli spettatori con le cuffie wireless e parla più che del mostro di Frankenstein, dell'autrice di Frankenstein, cioè Mary Shelley, che in quanto donna nell'Ottocento era tra virgolette mostruosa nel voler fare una cosa che una donna dell'Ottocento non poteva fare. Ecco, qui diciamo già in questo primo spettacolo

tutte le protagoniste e tutti i protagonisti per quanto riguarda ITC Teatro 2024-2025. A tra poco. Sua inesattitudine.